Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Tutti in piedi al forum, 8 secondi, sta aspettando Daniel, 7, vuole attaccare Gavel, magari per prendersi un fallo, invece il fallo non arriva, il tiro da 3 punti di Hackett! Daniel Hackett, a un secondo e mezzo dalla fine, non è finita, è Caleb, con Samuel che spazza via il pallone, e Daniel Hackett porta Milano alle top 16, manda fuori il Bayern, con una prestazione fantastica nel secondo tempo. Una ciliegina che più buona non potrebbe essere, il canestro della vittoria un secondo e mezzo dalla fine. Siamo dovuti rifugiare anche nelle iniziative soprattutto di Daniel Hackett, che nel quarto periodo è diventato protagonista assoluto in attacco. 8 secondi, sta aspettando Daniel, 7, vuole attaccare Gavel, magari per prendersi un fallo, invece il fallo non arriva, il tiro da 3 punti di Daniel Hackett, porta Milano alle top 16. Cattivi ragazzi, teste matte, teste calde, teste di rapa, di cavolo, di altri ortaggi. Franco Piantani dal nostro autore, Fabio Cantadoria, ride in regia, Daniele Buonamici in redazione e Luca Chiabotti collegato con noi. Cattivi ragazzi ti fanno disperare, ma magari, oppure qualche volta, spesso, può essere vincere. Li rieduchiamo o li buttiamo via? Questa volta tocca a Daniel Hackett. Tocca a Daniel Hackett, la telecronaca di Jerry De Rosa, l'avete sentita, partita decisiva per l'Armani, per il passaggio del top 16 di Eurolega, obiettivo obbligato per la squadra di basket di Milano, 81 pari con il Bayern in casa. E Hackett che segna questo canestro da tre incredibile, 14 degli ultimi 16 punti. Si era sull'81 pari, tiro a fil di sirena, anche un tiro ignorante se vogliamo. Allora, Luca Chiabotti, che facciamo con i cattivi ragazzi? Li rieduchiamo o li buttiamo via? Ma dopo una partita così uno dice rieduchiamoli, ma io credo che sia l'addizione un po' così, fuori luogo, nel senso che Daniel non è un cattivo ragazzo. Certo, ha i suoi modi un po' strani, non sempre urbani, non sempre sotto controllo, ma sarebbe come dire Poz cattivo ragazzo, Poz è un cattivo ragazzo, no. Sono persone particolari che ogni tanto fanno delle cose che non si possono giustificare, ma che hanno un fondo, secondo me hanno comunque un fondo buono, e poi sanno esprimere un gioco che va oltre la tecnica, ogni tanto ci mettono veramente qualcosa di si dice cuore, però è banale, è di più, perché anche leadership, capacità di prendersi una squadra sulle spalle, capacità di affrontare il rischio di fare anche una brutta figura, sì, e per vincere, ecco, questo credo sia stato Daniel ieri, che se magari avesse sbagliato quel tiro sarebbe stato magari accusato di aver voluto fare l'eroe della patria, poi l'eroe lo è diventato, quindi bravissimo, sì, veramente una grande prestazione. Daniel Hackett, che ricordiamo in estate ha mandato al diavolo la nazionale, si è beccato 6 mesi di squalifica, martedì c'è stata una surreale conferenza stampa di Eurolega che ha preceduto questa partita, in cui Hackett non poteva rispondere ai giornalisti italiani ma solo ai media stranieri. Tutto questo è abbastanza surreale e pazzesco, ma poi possiamo accostarlo ad altri che conosciamo bene nel calcio, fin troppo facile dire Balotelli e Cassano, possiamo accostarlo a personaggi che popolano un po' tutto il mondo dello sport. Tu Luca citavi Pozzecco, ecco, Pozzecco è di un genere diverso, ma mi viene voglia di dire che molto spesso dipende dal manico, cioè da chi li allena, da chi li guida. Ad esempio con Recalcati Pozzecco ha fatto le fortune di Varese, della Nazionale. No, certamente bisogna avere delle persone talmente talmente forti e talmente serene, non per niente noi diciamo sempre che recalcati al nostro coach Zen, da sopportare delle cose che farebbero male magari ad altri o farebbero male al gruppo. Anche Recalcati ha lasciato fuori Pozzecco dalla nazionale del 2003 perché era un gruppo da ricostruire, pensava che la sua presenza sarebbe stata non congrua con un gruppo da costruire, l'ha riportato però l'anno dopo. Ecco, diciamo, la capacità di valutare e di, tra virgolette, perdonare, la capacità di prendere il buono delle persone, la capacità di saper sopportare delle cose sapendo appunto che il fondo molto spesso di questi ragazzi è buono, sono ragazzi che danno tutto, sono ragazzi magari un po' sconclusionati in certi momenti, però voglio dire, prendiamo Pozzecco, prendiamo Hackett, prendiamo altri. Nei 40 minuti prendiamo Iverson, ecco, prendiamo Dennis Rodman. Quando succede che in campo c'è da giocare, danno veramente tutto quello che hanno per sé e anche per i compagni. Ecco, questa è un'altra cosa. Tante volte questi personaggi vengono assimilati a gente con un ego smisurata. In realtà, sia Daniel, sia Poz, sia questi ragazzi qua poi alla fine riescono anche a essere fondamentali per la squadra, per i compagni, ed è il motivo per cui sono accettati, certo, poi dalla squadra, certo, e dai compagni. Certo. Luca, ti posso chiedere altri 5 minuti dopo il traffico? Certo. Benissimo. Sono qua. Allora, strade 800240024, se volete intervenire fino alle 16, traffico. È il merito della nostra squadra di aver saputo interpretare e gestire una partita non semplice, complessa fin dalla vigilia, giocare contro un'avversaria che si gioca le ultime disperate speranze e possibilità di rimanere in questa competizione rende tutto tremendamente difficile. Tutti convocati. Primo pensiero è un plauso ai nostri avversari di stasera che con la sconfitta di oggi escono di scena da questa edizione dell'Eurolega, perché avendo già perso due volte contro di noi e una volta contro il Turo sarebbero condannati anche da un eventuale arrivo in classifica avulsa, e stasera hanno dato ulteriore testimonianza del loro valore, di quanto meritassero un gruppo di questo tipo. Suona strano pensare a un record di una sola vittoria e 7 sconfitte, quell'unica vittoria è arrivata con il Panathinaikos come ulteriore segnale del loro livello di competitività. Questo era Luca Banchi, coach della Maia Milano, che dunque Luca Chiabotti verrà promossa alle top 16 di Eurolega, e sarebbe stato abbastanza clamoroso il contrario. Al prossimo giro c'è proprio il Panathinaikos, si giocherà ad Esio. Che impressione ti ha fatto? È stata una grande partita quella di ieri sera. Che impressione ti ha fatto l'Armani, squadra in crescita? Allora, è stata una grande partita, una partita emozionante, una partita credo che abbia lasciato tante cose belle dentro ai più di 10.000 che anche ieri erano al forum a vedere la squadra. Non è stata una partita eccezionale sotto il profilo, diciamo, tecnico, perché sono due squadre che difensivamente hanno ballato un po' troppo e che quindi hanno anche permesso poi delle cose molto molto belle in attacco come quelle di Daniel. Io credo che Milano si sia meritata questa, diciamo, qualificazione, anche se poi sai che in questi gironi in cui passano tante squadre poi c'è sempre l'aritmetica che dice domani forse uno vince di 47, l'altro perde, non è ancora deciso tutto. Noi la diamo per scontato. Credo che Milano dovrebbe però battere il Panathinaikos per dare un senso un po' più europeo alla sua stagione regolare, perché se passa battendo soltanto le ultime due, Turo e Bayern, che ha fatto una buona partita, ma non stiamo parlando dei top team di Eurolega, per dare un bel senso compiuto a queste belle cose e a queste belle sensazioni che ha saputo regalare, deve batterne una di quelle grosse e far vedere che quando cominciano le top 16 è vero che questa è una squadra che può competere per andare ai playoff e perché no alle Final Four. Sì, anche l'anno scorso non partì benissimo, poi fece una grande top 16 e come è andata poi ce lo ricordiamo tutti, no Luca, il finale della stagione di Milano e quella sciagurata serie con il Maccabi che poi d'altra parte è diventato campione d'Europa. Un'ultima cosa per tornare ad Hackett e chiudere. Parlavamo cattivi ragazzi, magari maleducati, magari teste matte, teste calde, teste di quello che vuoi, ma che cosa serve per metabolizzarli? È un discorso generale che possiamo applicare, praticare, coniugare, declinare in tutti gli sport. Serve un particolare atteggiamento della squadra per sopportare questi giocatori? Sicuramente serve la consapevolezza che questi sono diciamo utili alla causa e serve appunto la capacità di molti altri, penso a Moss ad esempio, di saper sempre fare un passo indietro a favore della squadra ed è una cosa collettiva, non c'è l'allenatore che lo fa, la società brava che lo fa, secondo me è un lavoro di tutti che funziona, però appunto secondo me quando la cosiddetta testa matta, ci fermiamo a matta, sì. È ripeto a un fondo buono, a un fondo di una persona che ci tiene, sta bene coi compagni, lavora con loro e quindi è uno che viene accettato. È chiaro che se poi invece uno di questi crea delle rotture perché è egoista, perché è puntuoso, perché crea dei problemi, allora diventa praticamente ingestibile. Non è il caso di Daniel. Daniel però storia con la nazionale chiusa. No, okay. io credo che sia riaperta perché i suoi compagni fecero una cosa strana, scrivere una lettera aperta contro di lui che contrasta un po' con quello che magari ho detto prima, cioè dell'accettazione dei compagni, però si tratta di un comportamento. Lui andò a colpire le professionalità di persone di persone deboli tra virgolette che lavoravano con gli azzurri, quindi i medici, i preparatori atletici, tutta una serie di persone che gli altri compagni hanno deciso di difendere. Sì, sì. Hanno fatto bene o male, non so, comunque è stata una presa di posizione in questo senso più che nei confronti di Daniel. Lì Daniel sbagliò alla grande, è stato bastonato anche da chi gli voleva bene, ma credo che possa tornare se poi è quello di adesso. Poi finita la squalifica, quando sarà tutto tornato normale, se ritorna ad essere più difficilmente gestibile, a questo punto però se l'è cercata. Chiaro. Grazie Luca, buon lavoro. Grazie a voi. Grazie Luca Chiavotti. Ciao. Penso che il tour comunque è stato bello fino adesso, no? Tutte le giornate che siamo riusciti a passare, ci sono stati i momenti più belli delle vittorie, dalla prima fino a quella di oggi, però penso che l'emozione che dai campi Elisi non la può dare nessun'altra tappa o nessun altro evento. Questo era naturalmente Vincenzo Nibali. C'è una notizia di oggi che è abbastanza clamorosa, anche se non è definitiva, quella della Astana, che al momento la squadra, super squadra di Nibali, che al momento non ha ottenuto la licenza per partecipare al World Tour. Perché? Per la storia delle positività, dei due casi di doping che sono stati beccati, sono stati rintracciati nella Astana. Pier Augusto Stagi, buongiorno. Ciao Carlo, buon pomeriggio. Stavamo parlando di teste matte, della difficoltà di coniugarle magari in chiave azzurro, in chiave nazionale, Daniel Hackett e la sua vicenda, Balotelli e Cassano e tutti questi altri. Ma se nel 2002 a Zolder non c'era Cipollini, che di certo era uno abbastanza complicato da gestire, magari avevamo un mondiale in meno, no? Vabbè, assolutamente. Cipollini è sicuramente uno dal temperamento forte, una testa calda, ma che sapeva poi tradurre anche la sua adrenalina in maniera positiva con delle volate che tutti noi ci ricordiamo e abbiamo conosciuto. Quindi anche questi personaggi, come potete vedere, vanno gestiti, ma sono coniugabili ovviamente a tutti piacendo. Senti, ma la storia della Astana invece, la settimana prossima verrà presa la decisione definitiva. però al momento dovesse partire domani il World Tour, l'Astana non sarebbe ai nastri di partenza. Sì, va detto, in realtà la lettura è molto corretta, ma ci sono alcune precisazioni. Allora, intanto al momento non ha la licenza, la commissione licenze del World Tour si è preso tempo ancora sostanzialmente una settimana, mercoledì prossimo dovrebbe sciogliere le riserve e decidere se per il sì o per il no. Nel caso l'Astana non dovesse avere la licenza di World Tour, che sostanzialmente gli consentirebbe di partecipare alla sorta di Champions League, diciamo così, del ciclismo mondiale, Vinokova ha già annunciato che farà ricorso al TAS, come fece esattamente 2 anni fa la Katiuscia di Joaquin Rodriguez, per intenderci. Sì. Hanno avuto una storia quasi analoga. In quel caso c'era di mezzo una squadra russa, quest'anno c'è di mezzo una squadra kazaka, e la Katiuscia fece ricorso al TAS e il TAS diede ragione alla Katiuscia, e credo che anche nella peggiore delle ipotesi il TAS darà ragione all'Astana anche in questo caso, perché non puoi privarli di un diritto sportivo. Sì, da un lato però c'è un regolamento, c'è una battaglia dura contro il doping, ci sono delle sanzioni, dall'altra parte c'è il TAS. Infatti no? Punisci in maniera, esattamente, però infatti tu punisci in maniera dura e restrittiva gli atleti o i responsabili, cioè tu non puoi coinvolgere nel caso specifico appunto l'enclave italiano, perché all'interno della formazione kazaka, che sono 27 corridori, 12 sono italiani, con Nibali Aru in testa. Nel caso specifico non c'entra nulla, perché hanno fatto dei grossi pasticci proprio i kazaki. Nella squadra maggiore della Serie A del ciclismo, nella prima squadra della Astana, sono stati trovati i fratelli Iglinski, tutti e due kazaki. E invece nella squadra giovanile sono stati trovati addirittura tutti e tre kazaki. Quindi è un problema, al momento, dobbiamo dirlo per chiarezza, molto loro. Sì. Il governo federale kazako ha già preso dei provvedimenti, che ha sospeso il direttore sportivo giovanile, ha sospeso la squadra, ha chiuso la squadra giovanile in termini definita Continental, e ha messo sul piatto della bilancia molti più quattrini per serrare le fila. Sì. In materia. Quindi adesso dovrà essere la commissione a valutare se l'atteggiamento della dirigenza kazaka sarà soddisfacente o meno. In sì. ogni caso, TAS o non TAS, anche qualora l'Astana non dovesse avere la licenza, verrà considerata esattamente come una qualsiasi squadra professional, che sono le squadre intermedie di seconda fascia, che vengono invitate. Certo. Dai singoli, dovrà avere la wild card, dovrà avere l'invito, potrà partecipare ai grandi giri. È impensabile che un Giro d'Italia o anche lo stesso Tour de France rinuncia alla maglia gialla, in carica, tanto per dirne uno. No, ma in effetti il discorso è evidente. Ti ricordi quando era di moda il nandrolone presso nelle farmacie dei gradi Serie A? Ne avevano beccati un sacco, come dire, ok. Forse era anche Davids in mezzo in questa vicenda. Ok, Davids, beccato, buttiamo fuori la Juventus. È un discorso che non ha moltissimo senso, anche se la lotta al doping rimane una priorità assoluta. Grazie Pier Augusto. Grazie a te Carlo. Un abbraccio, ciao Pier Augusto Stagio. Allora, abbiamo cominciato così, ma poi andiamo avanti, Passeremo a Pardo, al calcio, a tutte queste altre cose. 800 24 00 24, il numero verde. Però mi intrigava questo discorso dei cattivi ragazzi, delle teste matte, delle teste di cavolo, di rapanello, di zucchina, di pomodoro, di melanzana, di quello che volete, e della possibilità di, insomma, in qualche modo di redimerli, perché anche l'Armani con Hackett è stata indecisa sul se confermarlo, nonostante un pesante contratto che aveva in essere, oppure no. È stato deciso di tenerlo e ieri sera la scelta ha pagato dividendi. Con Balotelli invece in azzurro non si può fare, perché Conte ha detto il tempo non ce l'ho. Allora, chi sta parlando? E chi ha ragione? Tutti convocati. Garrisca vento il lavaro viola sui campi della sfida e del valore, una speranza viola. arriva ci consola. Abbiamo 11 atleti e un solo cuore. Affrontare una squadra che viene da due vittorie esterne e soprattutto perché credo che sia una rivale storica della Juventus e quindi ci dobbiamo preparare per bene. Credo che ultimamente abbia trovato un suo equilibrio, che ha due trasferte dove ha vinto due volte, l'ultima a Cagliari in modo netto facendo 4 gol. Giocare a Firenze non è mai semplice, però dobbiamo farlo e dobbiamo cercare di venire via con un risultato positivo. Per essere di Firenze vanto e gloria. Ci possono essere variazioni, abbiamo anche Giovinco davanti, abbiamo anche Coman, Padovin può rientrare a fare il terzino destro. Oggi farò allenamento e valuterò. Pereira può sicuramente dare il cambio a uno dei centrocampisti. Insomma, stiamo abbastanza bene fisicamente, per non dire bene, e quindi domani affronteremo la partita con grande determinazione. Sappiamo che affronteremo una squadra che gioca tecnicamente un buon calcio e quindi bisognerà fare bene. Sicuramente il pensiero non è assolutamente alla partita di martedì, abbiamo la partita innanzitutto perché da qui a martedì manca ancora quasi una settimana, mancano ancora 5 giorni, e poi credo che sia molto più importante ad oggi la partita di domani che quella di martedì. Poi a martedì ci penseremo da dopodomani e vedremo di affrontare l'Atletico Madrid nelle migliori condizioni. Vedremo con la società sicuramente vigile e sa di cosa c'è bisogno, soprattutto a gennaio, se le cose a livello numerico in difesa continueranno ad essere così. Per ora noi dobbiamo pensare a giocare la partita di domani e poi quella di martedì, e poi dopo vedremo una alla volta, poi arriveremo al 22 dicembre già con le idee ben chiare. E quindi questo Massimiliano Allegri che ha parlato questa mattina alla vigilia di Fiorentina-Juventus, una delle grandi classiche del nostro calcio. A proposito di cattivi ragazzi, Pierluigi Pardo, buongiorno. Buongiorno, come va? Molto grazie bene, molto bene. Incluso. A proposito di teste di rapa, di cavolo, ho guardato anche Franco Piantanilla. Ah beh, allora siamo al top. Perché come Allegri ha detto, stiamo bene, ma non troppo bene, visto che il signor Carlo ha una leggera influenza. Sono venuto a portare la voce. Ragazzi, comincia a parlare come quello della poesia. 14:30 da poco. Inizia la sfida, ma è solo un gioco. I moderni miti. Chi sono i moderni miti? È bellissimo. Guarda, no. Allora. A me piace perché insomma. Sai, parlavamo di giocatori difficili, complicati, no? Hackett che si era risolto una partita, che però non gioca in nazionale perché ha mandato a fare in bagno la nazionale quest'estate. Balotelli. E poi c'è Cassano. A proposito di giocatori difficili, Cassano, che è a tutti gli effetti un problema ora di Ventura. Leggo da Torino Granata. Pierluigi Pardo è molto amico di Antonio Cassano, al punto che il giocatore è stato suo testimone di nozze. Dunque, se dice nella trasmissione Tutti Convocati, in onda su Radio 24, che il fantasista barese potrebbe lasciare il Parma per il Torino, c'è da credere che non sia proprio una bufala. Sito cos'è? Torino Granata. Sono cavoli di Granata. Sono cavoli di Ventura, No, sono ma nel senso che se io poi avessi detto. Articolo letto 6417. Adesso bisognerebbe ritracciare tutti quei 6400 e dirgli, ragazzi, è un altro. Ho detto solo un'altra cosa. Che però se adesso ribadisco. No, ti tocca! No, se io adesso ribadisco quello che ho detto ieri, esce. Continuano le conferme. Certo, certo. Un ulteriore indizio. Adesso no, ti faccio un titolo, Secondo me il Torino, ieri, tutto nasce da quella telefonata dell'ascoltatore che ci chiedeva chi serve al Torino. Al Torino serve gente che segni. Ora Cassano è più uomo assist, che infatti il primo nome secondo me è un Pazzini, è un giocatore con quelle caratteristiche lì, insomma, che porti gol. Anche uno che è in grado di innescare Infatti, è un discorso tecnico, eminentemente tecnico, no? Esatto. esatto, esatto. Poi, dal punto, poi ieri sera ci ho parlato, gli ho detto: guarda, se tu attira su qualche giornale leggi che vai al Torino è colpa mia. Si è messa a ridere. No, però il sunto di oggi è: Pardo due punti, Pazzini al Toro, quindi l'ex 50% della coppia d'oro alla Sampdoria, manca l'altro 50, che è Cassano. Però, però Pazzini non è mio testimone di nozze, quindi sono meno credibile come... No. Sì, sì, questo è giusto. Vero, questo è vero. Però qui le illazioni, noi viviamo di illazioni, non ci interessa. No, ma il mercato in realtà, insomma, adesso senza svelare nulla, io non l'ho mai fatto in un quotidiano, ma il mercato nei giorni un po' morti, il lavoro dei giornalisti di mercato è anche quello di provare a immaginare degli scenari possibili, e cioè cosa serve a chi, ed è esattamente il ragionamento che ho fatto ieri, che però non rifaccio perché sennò... No, ma che si potrebbe fare anche per molte altre squadre, nel certo, senso. Cioè, non è... ma infatti è vero, infatti è vero. Poi il Torino secondo me ha delle caratteristiche che potrebbero sposarsi molto bene, ma questa è un'idea mia, ribadisco, non è assolutamente una notizia, non c'è notizia. La notizia è che lui sta bene a Parma, ovviamente nei limiti del possibile, perché è evidente che la situazione di classifica lo amareggia, ma sta molto bene dal punto di vista ambientale, e poi vedremo a gennaio, insomma. Vabbè, il procuratore, ma che me lo mette del no, mezzo? Vabbè, ma parliamo di Gabbiadini. No, ma aspetta, prima di Gabbiadini, visto che stavamo facendo questo discorso, abbiamo fatto con Luca Chiabotti, eccetera, eccetera, di questo discorso di cosa serve per mettere in riga un giocatore dal carattere particolare. Io ho letto molte volte che Cassano si è sempre trovato bene con allenatori che avessero carisma, che fossero magari ex giocatori di cui avesse una stima a prescindere, come direbbe Sanse Cosmi, o no? Sì, è stato questo il trucco? Qual è il trucco per mettere in riga Cassano? Ma io penso, sinceramente, gli ultimi anni della carriera di Cassano sono stati, beh, Genova ha fatto cose molto buone, poi al Milan secondo me non ha fatto granché, poi c'è stato il problema fisico enorme, mentre secondo me è stato sottovalutato il suo anno all'Inter, che secondo me è stato un anno buono, in una stagione abbastanza drammatica, con a un certo punto una discussione con Stramaccioni abbastanza forte nella seconda parte della stagione, ma secondo me quel Cassano dell'anno di Inter è stato positivo, sì. E alla fine secondo me, io gliel'ho anche detto, da un certo punto di vista è stato trattato meglio dal Milan che dall'Inter, secondo me, perché comunque il Milan non ha fatto nulla per mandarlo via. L'Inter, con l'arrivo di Mazzarri, ha deciso che non era più aria, insomma. Mazzarri è l'uomo che di fatto ha decretato la fine dell'esperienza nerazzurra di Cassano, che conserva un ottimo rapporto con i tifosi, con la società sicuramente, però poi se la guardiamo razionalmente dall'esterno, si aspettava che con l'arrivo di Mazzarri sarebbe stato confermato, e invece è stato mandato via, insomma. Beh, Cassano ha sempre detto che il suo allenatore di riferimento, insomma, quello che lui ha sempre, diciamo, apprezzato di più, e che comunque considera suo padre sportivo dal punto di vista, appunto, della panchina, è stato Fabio Capello. Però di contro, che può essere, diciamo, la figura più bastone, la carota però sembra essere Donadoni, con cui lui si è trovato benissimo sia a Euro 2008 sia a Parma, quindi diciamo che forse una figura perfetta non c'è, magari è un mix di entrambe, no, le figure. Infatti sì, io credo la dimensione di squadra per questo finale di carriera invece ce l'ho un po' più chiara, esatto, un po' più precisa, e il Torino è per far scherzo una battuta no, sto scherzando veramente, credo che sia un posto di una società di medio livello, magari con un po' di storia, con un po' di tradizione, poi se c'è un derby che aggiunge adrenalina, questo sicuramente non guasta, e non credo che rivedremo più Cassano in una grandissima squadra, in una squadra da scudetto, per capirci, non penso che ci siano le possibilità, poi nella vita mai dire mai, ma credo che sia più probabile che lui vada a fare il protagonista in una squadra di medio livello piuttosto che il rincalzo in una squadra top. Questo credo sia abbastanza normale. È normale che due settimane sono state tremende, perché io sono un tipo particolare. Se c'è una mezza opportunità, perché io quando sono arrivato a Parma ho detto al direttore, sappi che non ti metto, che voglio andare a Real Madrid, al Barcellona, io sto benissimo a Parma. Però se arriva la Sampdoria per una questione di famiglia, e perché sono innamorato di quella squadra, che voglio tornare in quella squadra là, mi devi aiutare ad andare. traffico. Questo è vero, questo è tutto verissimo. Questo è veramente corrisponde a quello che lui dice e pensa anche in privato. Ma è compresa anche la parte che comunque lui a Parma sta bene, lui a Parma si è trovato molto bene. Sì, però Pier, il Parma è una società che in questo momento rischia di non poter arrivare a fine stagione, quindi di questo bisogna tenere conto. Secondo me se andrà via dal Parma sarà soprattutto perché il Parma ha bisogno di alleggerirsi, chiaro, il calcio comunque importante. E sarebbe un discorso assolutamente comprensibile da entrambe le parti, no? Assolutamente. Non ci sono discussioni su questo. Traffico. Ma è vero che sei tu la sorpresa di Ferrero? Che? È un po' di giorni che Ferrero dice... Vi che porta... con la Nutella? No, quella della Sampdoria. Ah, ok. Tutti convocati. Allora, in Italia l'abbiamo bocciata perché costa troppo, è notizia di ora. In Germania invece dal prossimo campionato ci sarà la Goal Line Technology, quindi la tecnologia sulla linea di porta, e quindi in Germania, così come in Inghilterra, non ci saranno più i fantasmi. Quanto costa? Costa, beh, penso che sia lo stesso prezzo del... Che verrebbe praticato in Italia, dai 250 ai 320 mila euro a botta a stadio. Però lì 15 voti favorevoli, 3 contrari per i proprietari dei club della Bundesliga, quindi praticamente un plebiscito a favore della Goal Line Technology, che mi sembra un passo irrinunciabile a questo punto per tutti. Noi invece non ce ne accorgiamo perché preferiamo litigare ad ogni pallone che balla sulla Liga, evidentemente è così. Stavamo dicendo di Gabbiadini? No, perché insomma Gabbiadini va al Napoli, è fatta, no? Piantanida. Gabbiadini sì. Al Napoli è cosa fatta? Sì, diciamo che meno. Sì, pare così si legge dai giornali. Una Bigon... casella alla Sampdoria. Si è liberato una casella alla Sampdoria, quindi no, Bigon poco fa alla radio partner del Napoli, nostra concorrente amica, ha detto: Gabbiadini ci piace, stiamo lavorando, bisogna aspettare, però insomma direi che ci siamo per il sostituto di Insigne almeno fino alla fine stagione. Io voglio due cose. La prima è che parlo a questa radio l'annuncio ufficiale che andrà all'Isola dei Famosi. La prima è questa. E la seconda è che ci dica ufficialmente dove va Cassano. No, ma il vero problema di Pardo all'Isola dei Famosi, se non l'hanno preso, è che voleva più di Schettino. Se Schettino, come si legge, prende 1,5 milioni di euro. Tu, ma quanto diavolo volevi? Ma pazzesco. Prende 1,5 Schettino? Questo si legge su Oggi, su questi. No, dammi, su questa stampa faziosa. Ma figurati. No, ma ne parlate solo voi di questi Isola dei Famosi, ve ne rendete conto? Cioè, siete voi due, non è vero, cioè, basta aprire un qualunque sito, fare una ricerca a Pardo Isola dei Famosi, ci sono. Vabbè, perché sono robe vecchie, ci sono un'infinità di siti che documentano questo. Ma sono robe vecchie, Pardo Isola dei Famosi, vediamo. Vai, 0024 0024 è il numero verde. Poi voglio parlare comunque anche seriamente di Fiorentina Juventus, perché l'anno scorso a Firenze la Juve inciampò in maniera vistosa e poi è partita con mille suggestioni. Molti ascoltatori di Firenze hanno goduto come ricci perché abbiamo fatto sentire l'inno della Fiorentina e, hanno gradito, l'abbiamo fatto con piacere. Zeffirelli e Baggio, il rigore di Bredi a Catanzaro che tolse la Fiorentina, di Graziani e Pecci uno scudetto, con Cagliari Fiorentina che finì 0-0. Hai qualche altra storia su Fiorentina Juventus? Quante ne hai commentate, Pierluigi? Ne ho commentata forse solo una, ho commentato il famoso Juve Fiorentina 2-3, quello con la vittoria della Fiorentina 20 anni dopo e 2000 persone a Firenze a prenderli all'aeroporto, quindi quella di Osvaldo, Papavaigo, Gobbi, era una Juve un po' in affanno, sì. Juve minore, però insomma comunque fu una partita abbastanza incredibile con la Juve, se non sbaglio 1-0 Fiorentina, 2-1 Juve, 3-2 Fiorentina con gol all'ultimo minuto di Osvaldo o di Papavaigo, forse di Osvaldo. E poi ho commentato un Fiorentina-Juve dove ha vinto la Juve con gol di Diego, quindi siamo sempre nell'ambito vintage. E poi ho fatto Juve-Fiorentina l'anno scorso che ha vinto la Juve, insomma no, ne ho fatti un po', beh, è una partita di enorme fascino, devo dire, secondo me soprattutto a Firenze, perché è un derby che secondo me è molto più sentito da una parte piuttosto che dall'altra, cioè è una rivalità È una rivalità anche tendenzialmente abbastanza giovane, abbastanza unilaterale. Abbastanza unilaterale e anche piuttosto giovane, credo che risale appunto agli anni dei Pontello, no? A quella Fiorentina. Risale a quel famoso Catanzaro-Juve, rigore di Bredi, mentre Cagliari Fiorentina 0-0, sì. Appunto, no, risale secondo me esattamente a quello. 1982. Sì, esatto. 81-82, quindi no, quella è assolutamente l'origine ed è, c'è un po' di sproporzione, è molto sbilanciata come rivalità, nel senso che io credo che la Juve in questi ultimi anni, come la rivalità vera dei tifosi della Juve, la principale sia stata con l'Inter, perché credo che la vicenda di Calciopoli è una vicenda che si mangia tutto il resto. Poi c'è stata quella, la rivalità con la Roma, la rivalità a fasi alterne. Io, ecco, a questo proposito io mi ricordo di aver commentato un Juve-Catania, punteggio non me lo ricordo, ma penultima giornata dell'anno dello scudetto di Mancini del 2008, direi, quando il giorno di Inter-Siena, il giorno di Inter-Siena c'era l'Inter un po' in affanno che poi vinse il campionato la settimana dopo a Parma, che giocava contro il Siena e vincendo quella partita diventava campione d'Italia, sbagliò il rigore Materazzi, se vi ricordate, sì. 2-2, io stavo facendo Juventus-Catania quando ai gol del Siena c'era il boato dei tifosi della Juve, cioè i tifosi della Juve in quel momento preferivano lo scudetto alla Roma, almeno quelli allo stadio, credo, la stragrande maggioranza rispetto allo scudetto all'Inter. Adesso magari col fatto che Roma e Juve sono così rivali con tante polemiche, magari no, qualcosa... io non credo che però nulla io penso sia che cambiato, l'Inter sia sempre, sia sempre. Sia. Poi la rivalità Milan-Juve, che praticamente non esisteva dopo il famoso gol non gol di Muntari, è diventata sicuramente molto più forte, quindi insomma poi ci sono anche degli episodi che rendono le rivalità grosse, però certo. Io penso che Juve-Fiorentina sia soprattutto sentita dai viola. E oggi, a proposito di Juve-Fiorentina, sono 20 anni da quel meraviglioso gol di Alex Del Piero da sbarbatello al volo, Juventus-Fiorentina 3-2, 4 dicembre 94. E possiamo anche aggiungere questo messaggio, Stefano da Firenze: vogliamo parlare della finale di UEFA del 1990 e il giorno dopo Baggio alla Juventus? Basterebbe questo per detestarli. Giovanni Ravenna, buongiorno. Guardi, io ero a Torino 20 anni fa e le posso dire che è stata una goduria incredibile, perché c'era un Vialli in palla clamorosa che, se non sbaglio, fece doppietta in quella partita, e all'ultimo minuto Del Piero l'inizio della grande ascesa, una roba micidiale, lo stadio è rotolato tutto giù, cioè era stato bellissimo. Goduria immensa, è un gol incredibile. Sono quelle cose che restano, che lasciano il segno in tutti noi che amiamo questo gioco. Perché possono passare gli anni, però è come sentire una canzone di quando avevamo 14 anni e andavamo il motorino in spiaggia dove la fidanzata. No? Sono quelle cose, questi gol ti restano dentro. Da Juventino odio solo il Milan, scrive un ascoltatore. Un altro se la prende perché non si parla di Farsopoli perché è roba vecchia, ma si parla del rigore di Bredi. Vabbè, allora che c'è? Un episodio della storia del nostro calcio. Va bene, ci fermiamo per Bad Corner. Dimmi, Pier. Non puoi andare dietro al tifoso. Cioè, non riesci a seguirmi. Quando inviti uno dell'Inter, quando inviti fa molto ridere, perché io voglio dire una cosa ufficialmente. Aspetta, diciamola dopo perché se, dobbiamo rispettare bene i tempi. Bad Corner, GR, poi torniamo insieme. 800 24 00 24. Questo è facile, va messo a pezzo di carne abbastanza alto su un mattone ardente con la legna ad ardere e si cuoce a bistecca la Fiorentina al sangue, rigorosamente al sangue. Quote e pronostici. Dopo le vittorie di ieri di Atalanta, Empoli e Udinese, quest'oggi si chiude il quarto turno di Coppa Italia con altre due partite. Alle 18 il Cagliari di Zeman attende il Modena al Sant'Elia. Vediamo dunque le quote SNAI per questa partita. L'1, la vittoria dei Sardi, è quotata 1,53, l'X è a 4,15, il 2 invece, con il successo dei Canarini, quotato 6, gol a 1,65, no gol, quotato 2,10. Alle 21 la Sampdoria attende a Marassi il Brescia per l'ultima gara di questo quarto turno. L'1, la vittoria della Samp, è quotata 1,43, l'X è a 4,25, il 2 invece, con il successo delle rondinelle, quotato 7,50. In campo questa sera anche la Ligue 1 con il posticipo tra Lione e Reim, che chiude il turno infrasettimanale. Si gioca allo Stade de Gerland alle ore 21. L'1, la vittoria del Lione padrone di casa, è quotata 1,47, l'X è a 4,25, il 2 invece, con il successo ospite, è quotato 7. Questa era l'ultima delle quote SNAI di oggi. Noi ci risentiamo domani. Tutti convocati. convocati. Questo è facile, va messo a pezzo di carne abbastanza alto sul mattone ardente con la legna ad ardere e si cuoce a bistecca la fiorentina al sangue, rigorosamente al sangue. Il Giannese la palla dentro con la sponda che diventa buona per Marchigio, dentro per Giovinco, pallone che rimane lì, Arturo Vidal porta subito la Juventus in vantaggio, dopo 3 minuti è già 1-0 per la Juve. Ma io penso che soffriamo gli ultimi 20 minuti con la Fiorentina, no, non lo so se c'è una spiegazione, loro magari soffrono i primi 70 e noi soffriamo gli ultimi 20. Ilicic cerca Gomez alle spalle di Ogbonna, la palla è per lui, il controllo di Gomez, è tornato Mario Gomez, 1-1 a 12 dalla fine. Aspetto che metta in campo le proprie caratteristiche, che giochi con gioia, perché è una partita da vivere in ogni sua sfaccettatura, quindi di essere se stessa e di capire anche l'importanza della partita e metterci quel vigore che è necessario in una partita di questo tipo. Allora, questo è un riassunto dell'ultima puntata. L'ultimo scalpo tra Juve e Fiorentina. Lo scambio dei tweet, la storia della Fiorentina. Eccetera, la Fiorentina eccetera. A pranzo, vi aspettiamo per cena, la partita in Europa League. Pardo, ti ricordi? Mi ricordo, momenti di altissima comicità, ironia da una parte e dall'altra. Che poi c'è gente che non sta più negli stracci. Tornando all'ascoltatore di qui sopra, devi dire una cosa, peraltro, tu Pierluigi Pardo. Ci ha raggiunto anche Marco Belinazzo oggi. Ah, oggi ciao a tutti. Oggi siamo formazione tipo. Sì, non è che lui stia molto bene. Manca Capuano, perché... manca solo Capuano. Sì, ma l'unico sano resto sempre io, perché Bernazzo è arrivato con una sciarpa. Siamo tutti conciati da sbatter via. Ragazzi, veramente. Da sbatter via. No, l'ascoltatore di prima, che proprio c'è gente che non sta nella pelle. Invece Farsopoli non è un episodio, è il più grande schifo della storia del calcio, ma l'importante per voi miserabili giornalisti è alimentare l'odio contro la Juve. Odio tutti e non solo sportivamente. Spero che continueremo a lungo a spappolare i vostri fegati. Ti rendi conto. Devi digitare anche sulla tastiera con un po' di veemenza. È bravo, così fanno. Così. Ti rendi conto? Così. Te lo dico. Bravo, dovevi dire una cosa, no? No, volevo dire appunto che poi delle volte c'è proprio una mancanza di conoscenza ovvia, no, del lavoro. Per esempio, questa trasmissione che io conduco in televisione, non è che avere gli ospiti sia una roba molto semplice, cioè lo dico, per cui non è che se, perché non capito, inviti una volta uno dell'Inter, allora sei interista, ma inviti uno della Juve, sei uno della Juve. E il Napoli è un po' che aspettiamo, speriamo lunedì prossimo con Nicola Lombardo di avere un ospite che aspettiamo da parecchio tempo, cioè la porta è aperta, non è esattamente come in politica dove c'è la fila. C'è la fila perché i politici hanno voglia ovviamente di intervenire, perché intervenire in trasmissione ovviamente a titolo gratuito, ma comunque gli dà una possibilità di esprimere il proprio parere e quindi di raccogliere consenso. Con i calciatori non è così, con i calciatori ti scontri con gli uffici stampa che poveri fanno il loro lavoro, ci sono 80 testate, 500 richieste, i calciatori non è che proprio hanno tutta questa voglia di raccontarsi, poi magari vengono e si divertono, però ecco, questo è un tipo di cosa che forse andrebbe raccontata un po' di più, e vale anche per noi alla radio, cioè non è che noi se un giorno sentite uno della Fiorentina è perché vogliamo parlare della Fiorentina, perché siamo tifosi di quella squadra, ma perché forse è l'unico che quel giorno siamo messi d'accordo, ecco, la verità è assolutamente questa, per cui da un lato l'invito ai giocatori, secondo me, soprattutto poi in contesti rilassati e tranquilli, a intervenire, perché non muore nessuno, insomma, non è che bisogna fare. Infatti, secondo me è un concetto sbagliato. Vabbè, perché... sai, in Spagna, per dirti, dove non è che vincano poco, i giocatori sono abituati alle trasmissioni notturne alla radio a mezzanotte e intervengono. Io mi ricorderò sempre la scena di Sbonzi Napoli, c'era praticamente, non c'era il silenzio stampa, però c'era un giocatore del Napoli che parlava in zona mista, ma non è un'anomalia, poteva essere il Napoli come un'altra squadra, deciso dalla società, e poi c'era Callejon con un telefonino che parlava con la radio spagnola. Con il primer toque. Perché hanno un'altra cultura, della comunicazione, per cui io più che dire questo non posso, e se in questo momento abbiamo parlato di Fiorentina-Juve, della rivalità della Fiorentina-Rivale di Brescia, non è che dobbiamo parlare di tutti gli episodi arbitrali degli ultimi 100 anni. Non è che ce l'abbiamo con la Fiorentina piuttosto che con la Juventus, eccetera. Sono episodi della storia del nostro calcio, niente altro. Senti, se non arriva l'ospite del Napoli, ti mando Belinazzo, tanto uguale. Ma sicuramente. Io arrivo con la maglia del Napoli. Con la maglia del Napoli. No, che poi tra l'altro ha pubblicato uno scoop sul Sole 24 Ore di ieri. sul mio blog Calcio e Business, per la precisione. Il blog Calcio e Business. Con relativo sul bilancio del Napoli 2014. Erano attesi questi dati che spiegavano, o avrebbero dovuto spiegare, che è virtuoso. Molto virtuoso, molto, ma ci sono anche delle pecche che spiegano, per esempio, perché è stata gestita la campagna acquisti in un certo modo e non in un altro. Napoli ha chiuso un bilancio storico con un fatturato di 237 milioni e 20 milioni di utile, quindi l'ottavo bilancio in utile consecutivo, credo che solo il Bayern Monaco faccia meglio. E tuttavia in questo bilancio si evidenzia un problema a lungo termine, perché i ricavi operativi, cioè quelli su cui la società può contare sempre, non per la plusvalenza di Cavani, 60 milioni, che ha permesso di gonfiare un po' i ricavi, ovvero la partecipazione in Champions, altri 40 milioni, ma i ricavi operativi, quelli standard, cioè diritti TV, stadio e area commerciale, sono intorno ai 130. Parallelamente, avendo preso la scorsa estate gente come Higuain, Callejon, Albiol, Benitez, è successo che gli ingaggi, ma soprattutto gli ammortamenti che il Napoli spalma soprattutto sui primi anni, sono cresciuti e i costi del Napoli sono di 200 milioni. Quindi grosso modo tu hai una società che, sia pure inutile, ha 130 milioni di ricavi fissi e 200 milioni di costi. Sì. Questo significa che sostanzialmente, d'altra parte, i ricavi li fai anche se prendi grandi giocatori, fai grandi risultati. Cioè certo, però se manchi la qualificazione Champions. Se manchi la qualificazione Champions, ti prepari al primo bilancio in rosso, e allora il tesoretto che hai accumulato, e chiudo qui, perché si è parlato tanto di questo tesoretto, no? I tifosi del Napoli sempre mi chiedevano quanto poteva spendere il Napoli la scorsa estate. C'è un tesoretto, 70 milioni di riserve, di cui 50 milioni sui conti correnti, quindi liquidi. Nessun'altra società in Italia ha questi soldi, e però serviranno in gran parte per colmare il rosso che ci sarà a fine anno. Quindi a gennaio, acquisti oculati, non credo il colpo a effetto. Gabbiadini. Quindi nella prima riga del tuo post sintetizzi, cioè dai una carezza ai sogni dei tifosi napoletani, e dall'altra parte stronchi i sogni, perché dici Napoli è ricco ma non può spendere. Esattamente, è un'autocarezza e un'autoschiaffo, esatto. Diciamo così. Capito, certo. Senso. No, io devo dire che sono un frequentatore abbastanza assiduo del blog di Beli, non Belinelli ma Belinazzo, e poi riparliamo del Napoli, ma il pezzo che mi ha colpito di più in questi ultimi giorni è quello sul Dortmund. Bravo, vero. Sì. Perché insomma la cosa impressionante è che il Dortmund, che sicuramente attraversa una fase di crisi, anche se è ancora in Champions League, ma comunque sicuramente rispetto a quella finale di Wembley è calato molto e si trova in una situazione paradossale di classifica, in realtà mi sembra aver capito che comunque continui a fare soldi a palate. Adesso non mi ricordo quant'è la crescita, forse lui te la ricordi a memoria, però insomma è l'idea che poi una volta che tu stabilisci, cioè tu non devi essere schiavo del risultato sportivo. È chiaro che il risultato sportivo, la qualificazione alla Champions, è un volano enorme, no? Perché se ce l'hai fai soldi, se non ce la fai quei soldi non arrivano. Però io penso anche che ci sono dei paesi, e qui dobbiamo crescere e migliorare, che sono riusciti a far sì che la crescita, l'introito economico, sia in qualche modo indipendente dai risultati, proprio perché è dovuto a delle voci di ricavo che sono merchandising, stadio, fare stadio sempre pieno ogni giro di pista. Sì, certo, poi se vinci vendi qualche maglietta in più. Sì, no, il paradosso è come si può perdere ed essere lo stesso ricchi e felice. Come si fa? Che dobbiamo fare? Ne parliamo tra un istante, perché non vorrei tenere troppo in attesa Marco e Fabrizio, se certo, no, magari certo, si scocciano. Questo argomento del Borussia Dortmund è interessantissimo e tra poco lo trattiamo. Marco, dica. Sì, buongiorno. Buongiorno. Soprattutto vorrei fare i complimenti, perché comunque ci tenete sempre compagnia nei pomeriggi. Grazie a voi. Soprattutto invernali. Fanno compagnia. La musica in sottofondo. No, chiamavate un tifoso viola ed è arrivato, giusto perché per rispondere al gobbo di prima, no? Che ricordava la pennellata di Del Piero. Io sto aspettando per domani altre due belle mitragliate. Quale gobbo? Io sono... Due belle mitragliate dei signori Tevez e Pogba, per poi riceverne quattro a fine partita, almeno siamo tutti a posto. Quella mancanza di stile juventina solita di fare le mitraglie alla faccia di Battistuta, poi si è rivoltata scontro ed è rimasta negli annali. Devo dire che non è la mia esultanza preferita, posso dire che non è la mia esultanza preferita. Comunque sì, vabbè, battuta regolare. Vabbè, prima partita mi sembra battuta di capire, no? Regolare. Siamo a giovedì alle 15:17, no? Siamo già a calcio d'inizio con la testa, va bene, molto bene, dai. Fabrizio, dica. Ciao, senti, ti racconto l'episodio. Innanzitutto sono juventino, ma non mi interessa il discorso rimbangare cose varie. Io ti dico solo, padre fiorentino, faccio carabiniere 20 anni fa, maresciallo di caserma della Fiorentina, sì. Mi porta allo stadio a vedere Juve Fiorentina con la pennellata di Del Piero, poi mi dice ci vediamo a ritorno, andiamo a ritorno a Firenze, 4-1 per la Juve, in curva Fiesole, io stavo zitto perché ero in mezzo alla curva Fiesole, sul ritorno verso Genova dove facevo il servizio, mentre cantavo in macchina naturalmente prendendolo in giro, mi abbandona in piazzola. Sì, Beh, mi sembra democratico. Secondo me hanno fatto pure bene. Posso dire. No, vabbè, ma dai. Hanno fatto bene. Avevo 20 anni, e la moglie si preoccupò di fermarlo prima che entrasse in una galleria per farmi venire a prendere, perché sennò ero ancora in piazzola, sicuramente. Però lo dico con però contento. In piazzola contento però. C'è un sacco di tifosi sarebbero rimasti in piazzola contenti, cioè, della Fiorentina. No, ero contentissimo, ma questo non vuole essere di scherno per nessun tifoso della Fiorentina. Quella è stata un'annata incredibile. E ho goduto l'andata, ho goduto il ritorno. L'anno scorso ho goduto meno col 4-2 per loro, però cioè, senza andare a rimangare Brady o rimangare si può rimangare quello che si può vangare e rivangare quello che si vuole, però secondo me cioè, ci deve essere anche un limite alla rabbia, un limite a cioè parole come odio, come queste cose qui non hanno assolutamente. Ma guarda che le persone intelligenti sono troppo, cioè voglio dire, sono tutti discorsi che fra persone intelligenti fanno ridere, perché non esiste un tifoso della Fiorentina che non conosca un gobbo e non sia amico di un gobbo, così come non esiste un laziale che non abbia un amico romanista o viceversa. Insomma, finché si gioca ed è bello ed è divertente, fa parte inevitabilmente della passione del calcio, senza la quale il calcio sarebbe uno sport come gli altri, cioè andremo a vedere il calcio come si va a vedere l'atletica leggera, ha vinto Tizio, ha vinto Caio, o anche il tennis, che è uno sport meraviglioso dove sicuramente c'è il tifo, ma insomma ti può stare più simpatico Federer, più simpatico Nadal, ma non è che se vince Federer o Nadal, a meno che tu non sia un parente, ti cambia. Non è che tu non sia Mirka Federer. No? Esatto. Non è che ti cambia. È un problema. La forza del calcio è in questa follia. La forza del calcio è in questa follia, in questa autosuggestione collettiva che è bellissima a patto di ricordarsi che ovviamente il motivo per il quale uno è tifoso di una squadra è legato magari a quello che gli ha insegnato il padre o a delle circostanze, o come ci diceva l'ascoltatore, veramente a delle circostanze della sua vita. Non è che c'è uno che nasce col DNA, capito? Non è. Sono scelte che fai da bambino. Sì, sono scelte o ti ci trovi, o poi c'è chi è più tifoso, chi è meno tifoso, non è quello, però voglio dire, mi sembrava una testimonianza simpatica. Volevo capire poi dalla piazzuola come ha fatto a tornare a casa, avrà fatto autostop. L'ha ripescata, evidentemente. L'ha ripescata. Allora, torniamo in Germania, dove, ripeto, entrerà in vigore la tecnologia sulla linea di porta dall'anno prossimo. È stato deciso oggi, quasi all'unanimità, alla faccia degli italiani che non la vogliono e dei costi che a me non sembrano esorbitanti. Comunque, detto questo, 250.000 euro più o meno a stadio. Con Marco Di Renzo, a stagione, sì. Che costo è? È ridicolo. È questo, 250.000. Ma i presidenti italiani dicono che costa meno di 5 milioni, vuol dire che sono meno di 5 milioni, costa troppo. Quindi sono un duecentesimo solo degli introiti da diritti televisivi. Un duecentesimo. Costa troppo. Per i presidenti italiani costa troppo. No, ma l'ha detto Nicky, non abbiamo mai sbagliato, quindi sono soldi risparmiati. Allora, come si può perdere ad essere felici? Stiamo parlando del Borussia Dortmund. Marco Rinazzi. Con questa capacità che sottolineava anche Pier di aver creato una struttura, diciamo, aziendale alle spalle che permette di fare ricavi e di ottenere risultati economici a prescindere da quelli che sono poi i rendimenti sportivi. Io vi invito a riflettere su questo aspetto. Pensate a quante squadre italiane in questo momento dipendono in maniera essenziale dalla Champions League, cioè hanno speranza di rialzare la testa qualificandosi al terzo posto, cioè cito il Napoli, Milan, Inter, Lazio, Fiorentina, troppe squadre che dipendono da un'entrata diciamo straordinaria che soltanto una potrà in qualche modo conquistare, dato per scontato che Juve e Roma avranno i primi due posti. E peraltro, visto il sistema, il marchingegno che si è inventato Monsieur Platini per ottenere i voti dei paesi limitrofi, cioè quello di far fare i playoff ai preliminari alle squadre campioni di paesi diciamo appunto limitrofi, mentre i big tipo Napoli, Atletico Madrid dovranno continuare ad affrontarsi nei preliminari, diciamo si è creato un meccanismo per cui l'Italia rischia ancora per qualche anno di avere solo due squadre, certo, in Champions League, certo, rinunciando a soldi importanti. E peraltro vi invito a riflettere su questo aspetto. L'Italia dovrebbe fare un'azione politica importante per riottenere quattro posti in Champions, perché è vitale che ci sia una compagine nutrita di formazioni italiane in Champions per i ricchi contratti che ha la Champions League. Questa azione comune e politica nei confronti di Platini non viene fatta, non viene fatta per la solito campanilismo italiano, ma anche perché poi fondamentalmente alle due squadre che si qualificano, le due squadre italiane, le cose poi vanno bene così, perché pensate, due anni prendono fa più soldi. Esattamente, due anni fa Juventus e Milan hanno preso più soldi dalla Champions del Bayern Monaco che l'ha vinta e del Borussia Dortmund che è arrivata al secondo posto, e l'anno prossimo, come Pier saprà, avendo Mediaset acquistato i diritti della Champions per circa 100 milioni in più rispetto a quanto li pagava prima Sky, significa che mentre ora c'è un gruzzolo più o meno di 80 milioni che a livello di market pool le squadre italiane qualificate si possono dividere, l'anno prossimo saremo intorno ai 150 milioni. Quindi diciamo che due squadre qualificate anziché tre potrebbero spartirsi una bella torta, e sì, quindi magari non c'è questa convenienza politica, e ripeto, questo è un grave danno per l'intero sistema che invece dovrebbe essere coeso in questa battaglia per far cambiare i criteri di accesso alla Champions League. Ma non c'è niente di coeso in questo paese. Prima stavamo parlando della storia della tecnologia sulla linea di porta, possiamo parlare di questa battaglia. Insomma, mi sembra che la differenza tra le italiane e le tedesche sia... No, dimmi Pier. No, anche se poi alla fine qui ci sono due filosofie che si scontrano. La famosa intervista di Bogarelli di due settimane fa diceva, il presidente di Infrot, il capo di Infrot, diceva: per i soldi che le televisioni italiane spendono noi dovremmo avere sei squadre in Champions League, che è una visione, diciamo, iper professionistica all'americana. In America non ci sono le retrocessioni, ci sono le franchigie, si gioca a basket nei posti dove c'è bacino d'utenza, si gioca, quelle sono, e si spartiscono la torta a seconda degli introiti che riescono ad avere. Il concetto del calcio in generale, dello sport europeo, invece è un concetto che si basa sul merito. È chiaro che questo, quindi, è l'idea che se te le meriti quattro squadre in Champions League te le danno, se non te le meriti, come purtroppo è successo all'Italia negli ultimi anni, non te le danno semplicemente perché hai un ranking più basso di quelle di altri paesi. Ora è chiaro che noi dovremmo cercare un po' di riequilibrare questo ragionamento. Io non sono d'accordo con l'idea di Platini. Cioè, se posso essere infatti, d'accordo. Infatti, Pier, è lì che dobbiamo. Cioè, io non sto discutendo dei parametri del ranking per cui abbiamo fatto male in Europa League negli anni scorsi e quindi paghiamo le conseguenze. Io in particolare mi riferisco a quel criterio di abbinamento ai preliminari che ha fatto sì, certo, che il Napoli, certo, l'anno scorso sia stato eliminato, che l'Udinese, certo, sia uscita più volte perché ha beccato l'Arsenal, cioè a quel sistema per cui i gironi di Champions League li vanno a fare Ludogorets, con tutto il rispetto, e Bade Borisov, e non il Napoli, l'Inter e il Milan, perché non mi dite che dal punto di vista meritocratico starebbe, diciamo, sta meglio in Champions il Ludogorets anziché in Milan o l'Inter. Stai parlando dell'accoppiamento campioni-campioni, seconde squadre. Il parametro introdotto, certo, da Platini per ottenere i voti dei paesi limitrofi nel turno preliminare, nelle elezioni alla presidenza UEFA, ha cambiato questi parametri, per cui prima, diciamo, il Napoli che aveva, faccio sempre di Napoli perché l'ultimo ovviamente non per appartenenza, diciamo il Napoli che pur aveva un ranking migliore del Ludogorets o del Bate Borisov si è dovuta scontrare con l'Atletico Bilbao perché il regolamento fa sì che si accoppino a preliminari le squadre campioni dei paesi, diciamo, meno forti, e che poi squadre inglesi, spagnole, italiane non qualificate nei primi posti, quindi quelli automatici, si vanno a scontrare, vanno a scontrarsi tra di loro. Credo che sia un criterio, diciamo, politico e non meritocratico. Lo è a tutti gli effetti, anche per la storia dei bacini. Sì, dovremmo capire che cosa dipende molto dall'approccio. Cioè, una volta si giocava la Coppa dei Campioni con una squadra per paese, e diciamo che l'Italia o la Germania o la Spagna avevano le stesse squadre, una che aveva il Liechtenstein, e quindi da questo punto di vista, se guardiamo al passato, il criterio che c'è oggi è già un criterio che dà la possibilità di aumentare il livello tecnico, ovviamente, e di favorire le nazioni che hanno più qualità e ovviamente anche dei mercati più grandi. E il tutto è capire, stabilire quanto tutto questo è diventato, quanto, come la gradazione, cioè quanto vogliamo introdurre degli elementi, diciamo, che premino le squadre più forti, e quindi evitare i bogarelli, che i paesi che sono più ricchi, quelli che portano più soldi, debbano avere 6 squadre, non ne debbano avere 3 o 4. L'idea antica della Coppa dei Campioni era che tutti i paesi avevano una squadra lì dentro. Sì, il fatto che sono passati molti anni e soprattutto sono state accese molte televisioni in più. Appunto. Ciao Pier, sentiamo domani. Ciao. Grazie per Luigi Pardo. Marco Vinazzo, puoi rimanere, che vorrei parlare di quei 100 milioni del Milan? Assolutamente. Dopo la borsa vi dico quanto costa la goal line technology in Bundesliga. Bravo. Io direi che è interessante. Dopo la borsa, per l'appunto. Tutti convocati. Una partita importante, ci teniamo anche noi, al di là dell'avversario che dà grandissimi stimoli, perché affrontiamo una squadra vincente negli ultimi 3 anni e mezzo in Italia, quindi di per sé è difficile, ci teniamo a far bene contro un avversario appunto di primo livello, ma sappiamo che è partita complicatissima. Quando affronti un avversario del genere a livello tecnico è molto difficile, ma noi vogliamo regalarci qualcosa di importante sia per noi che per i nostri tifosi, ma soprattutto per la nostra classifica. Insomma, la nuova Juve di Allegri sta dimostrando, anche se ha cambiato modo di giocare in qualche modo a livello tattico, è sempre una squadra quasi imbattibile, quindi merito a Conte, che ha avuto la forza, la bravura di costruire una mentalità nel tempo. Vabbè, questo era Montella, appena parlato. Allora. No, c'erano già quelli che scrivevano: avete fatto sentire solo Allegri. Un attimo, ha parlato alle 15, sì, 15:35. Il taglio non era perfetto, che si sentiva Montella. Era la velocità, era metà della parola, insomma, perché ovviamente siamo tutti juventini. Abbiamo interrotto apposta Montella, certo. scientificamente. Ma se la mettono anche da noi, come fate poi a romperci i coglioni con le chiacchiere sul calcio per tutta la settimana? Il soggetto sarebbe la goal line technology. Ma il bello è che secondo me in Italia le chiacchiere ci sarebbero comunque, perché sarebbero chi ha fatto l'apparecchio, chi l'ha costruito, dove l'hanno fatta? A Torino, alla Fiat, dove l'hanno costruito? Bravo, esatto. Fatele due risate, quanto, tutti seri. Mi dicevi quanto costerebbe Germania? Quanto costa in Germania? Sono indiscrezioni perché non leggo il tedesco, ma i numeri sono sempre quelli scritti nella maniera araba. E no, 180.000 euro, quindi una settantina di mila euro in meno a quelli paventati per la Serie A. Loro fanno lo sconto, com'è sta storia? No, perché bisogna capire, in Serie A costava 250, la 180, com'è? Perché magari qualcuno ci fa la cresta. Qualcuno ci fa la cresta, naturalmente. Senti Marco, prima di Roberto da provincia di Varese, stia lì, anche Antonio Damanto, 800 24 00 24, numero verde. Ma questi 100 milioni che il Milan ha preso da Fly Emirates, che Milan è un altro caso tipo Borussia Dortmund, no? Più peggio sono i risultati, più ti dà, più soldi ti danno. C'è un blasone, c'è una storia per fortuna, e quelle per un po' reggeranno ancora, se non saranno rinverdite naturalmente. È un accordo importante, tenuto conto della congiuntura, dell'appeal che la Serie A sta perdendo, che conferma, ripeto, il blasone internazionale del Milan. Si tratta di un incremento di 40%, il 40% rispetto al precedente contratto, quindi da 12-7. 5 anni fa, quando era stato inchiostrato il primo, era un Milan vincente. Sì, però evidentemente in questo momento per Emirates, per Fly Emirates, non a caso c'è stato il primo volo dell'A380. Era tutto studiato, era lo stesso giorno. Il mercato italiano, parlo di mercato aeroportuale, insomma, del viaggio, trasporto aereo, è un mercato importante, per cui si possono anche concedere 5 milioni in più sul contratto al Milan per 5 anni. Non sono questi naturalmente che cambieranno le sorti del club rossonero. Non a caso la stessa Emirates, per esempio, al Real Madrid dà il doppio. ancora di qualcosina in più all'Arsenal, perché lì c'è uno stadio di proprietà, sì, e quindi ci sono anche i naming rights dello stadio. Ecco, nella conferenza stampa l'aspetto positivo, a mio avviso l'aspetto più positivo, che è passato un po' in secondo piano, è il fatto che Emirates ha lasciato aperto qualche spiraglio sulla possibilità di coinvestire con il Milan in relazione a un progetto stadio. Ecco, questo mi sembra più interessante, perché può portare, diciamo, a ricavi di lungo periodo, a investimenti e a una rivoluzione culturale in Italia, che permetterebbero effettivamente poi di avere maggiori entrate, sì, più stabili. Io mi tengo tutto il mio scetticismo sull'argomento stadi in Italia. Purtroppo sono pessimista in maniera cronica sulla questione stadi in Italia. Però di lì si deve passare se si vuole ricostruire qualcosa. Cioè, altrimenti davvero stiamo raccontando aria fritta e stiamo perdendo tempo tutti, perché avere uno stato di proprietà significa tutta una serie di cose, e ti dico soltanto una cifra ed è stimata al ribasso, cioè dal mancato adeguamento dell'impiantistica sportiva, stadi che hanno in media più di 60 anni, la Serie A perde ricavi che potrebbe avere per circa 500 milioni, certo, all'anno. Però rifletti su questo punto, mentre andiamo dagli ascoltatori, rifletti su questo punto: quando hai un presidente federale Tavecchio che in un'intervista dice non servono stadi nuovi in Italia, intervista al Messaggero di una decina di giorni fa, un paio di settimane fa, non servono stadi nuovi, bisogna rimodernare quelli già esistenti, perché i nostri club non possono permettersi di spendere 5 o 600 milioni di euro per costruire un nuovo stadio. Ora, credo che quello della Juventus sia costato 150. Quindi mi sembra una cifra abbastanza abbastanza ipotetica e un po' inventata verso l'alto. Quindi, però, se diciamo questo che è il pensiero del presidente federale, avrà pure un peso. Io non sono presidente federale, però posso dire che tutti i progetti, diciamo, più moderni di stadio redditizio impongono la costruzione di uno stadio da 60.000 posti che costa circa 300 milioni. Sì. Dico anche questo, che c'è un grosso equivoco sul concetto, diciamo, di stadio di proprietà. A me non piace tanto parlare di stadio di proprietà quanto di stadio di qualità. Sì. Cioè, si può anche intervenire in maniera robusta sugli stadi esistenti, riqualificandoli. Il problema è avere stadi nuovi, moderni e funzionali rispetto ai servizi che devono essere forniti agli spettatori. Posto che ci sono le TV che offrono uno spettacolo bellissimo che ti puoi comodamente godere da casa tua, l'esperienza stadio deve essere diversa, certo, e deve essere di più. A me sembrano ormai cose banali, perché le ripeto da anni, quindi ormai come sono un vecchio nonno. La televisione che non può essere il surrogato della partita allo stadio, sono due cose totalmente differenti. Però oggi devi dare di più, devi offrire di più, e allora se avessimo tempo qui mezz'ora potremmo parlare di cosa si intende per esperienza stadio. Chiunque sia andato in uno stadio all'estero più o meno lo sa, sì, cioè dal parcheggio comodo. Quanto più ti pago il biglietto, più parcheggio comodamente, poi entro e mi offri un servizio di hospitality come si conviene, mangio, poi mi vado a sedere, ho davanti a me lo schermo dove rivedo i gol delle altre partite, rivedo la moviola, magari ho un sistema di wifi che funziona, il telefonino che funziona e non le linee che vanno in tilt perché c'è un sovraccarico. Semplici cose che all'estero fanno, compreso l'utilizzo intensivo dello stadio, lo stadio San Paolo per esempio, che è già ridotto in maniera pessima, sarà prestato dal comune per due concerti quest'estate, sono iniziate già le polemiche tra il Napoli, gli agronomi, il comune. Napoli che dovrà presentare un progetto di ristrutturazione del San Paolo, c'era un termine al 31 marzo, ora è stato rinviato al 31 maggio, con sindaco e presidente che continuano a litigare, e intanto sono passati 5 anni. E il Napoli, per questo che ti dico, sono pessimista, non perché, cioè, secondo me gli stadi che tu descrivi sono neanche in un mondo ideale, in un mondo normale che già esiste, non da queste parti. Roberto, provincia di Varese, buongiorno. Buongiorno. Dica. Niente, volevo parlare del fatto che avete detto due volte del rigore di Bredi a Catanzaro, no? E giustamente, però tra le righe non si è detto che però c'era. Era una parata con la mano sulla riga di porta. Sì. E se no sempre che poi passa che la Juve ha vinto sul rigore e il sospeso rimane, quindi ha rubato. Ma no, ma chi l'ha detto? No. Cioè è semplicemente un calcio di rigore tirato e segnato da Liam Bredi mentre la Fiorentina ha fatto 0-0 a Cagliari. Ecco, sono quello. Poi è chiaro che No, ma io, così, io le giuro che non volevo sottintendere niente. 40 milioni di antijuventini si vende di più a parlare contro che a parlare a favore. Ma, dire che è stato un rigore di Brera, se vuole dico un gol, non menziono neanche il rigore. Gol calciato da 11 metri, bisogna dire. Gol di Brera, ma non stava a sottintendere che il rigore non ci fosse, eccetera, eccetera. Non sottintendevo niente. L'episodio è stato quello, 0-0. Non ho detto Cagliari-Fiorentina 0-0. No, sinceramente quella partita non me la ricordo, la Fiorentina però si suicidò in quel modo, non mi ricordo se c'erano stati episodi arbitrali o cose del genere, semplicemente la storia dice 1982, Catanzaro-Juventus 0-1, gol di Brera, parentesi R, Cagliari-Fiorentina 0-0, lo scudetto va alla Juventus e da lì inizia la rivalità tra bianconeri e... Ah, beh, bellissimo, perché poi i tifosi riscrivono la storia, cioè al contrario, si va a ritroso, perché magari nel 1981 si diceva gol su rigore, però oggi è giusto specificare rigore che c'era per tutto quello che è successo dopo, cioè capisci che però non ne usciremo. Marco, c'era. Non ne usciremo. Sottigliezze che, come dire, che mi sfuggono, insomma, ogni tanto. Vabbè. Preferisco così. Tutti convocati. Facile non c'è niente, però l'obiettivo è quello lì, vincere l'Europa League e arrivare in Champions in Italia, che poi sarebbe la stessa cosa perché magari vincessimo l'Europa League. Stiamo lavorando per quello, adesso fortunatamente siamo passati come primi nel girone e possiamo pensare al campionato fino a febbraio. Questa è Andrea Ranocchia in un'intervista di ieri, potete leggere anche oggi sulla Gazzetta dello Sport. È un'altra delle... Sto leggendo un messaggio pazzesco, no? Non puoi dire niente. Leggilo. Tralascio gli insulti, smettila di fare il polemico e fazioso mettendo dentro la Juventus in ogni tua punzecchiatura solo per fare dei ascolti. La tecnologia per i gol fantasma la prepareranno a Mafiaset nella tana del tuo padrone. 14:30 si parte tra poco. Preferisco un tocco di poesia, la lirica che senti. Moderni miti. Ripudio di cori. Vabbè, Antonio Mantova, buongiorno. Buongiorno a tutti, complimenti per la trasmissione. Volevo fare due... Qui da Mafiaset. Volevo fare due provocazioni. Allora, anche noi interisti siamo in maniera diversa perdere ed essere felici. Adesso che c'è Mancini siamo... Lo so. Perdiamo, è più facile, cioè più digeribile la sconfitta. Lo so. Dire, l'altro giorno avete detto che l'Inter cerca un attaccante, ma... È un Pazzini, un ritorno clamoroso di Pazzini, cosa ne dite? Vedo dura, Non si era lasciato benissimo con l'Inter, non credo che... Non si è lasciato benissimo, è un'altra Inter, un'altra storia, un altro film, però mi sembra più semplice un viaggio verso Genova. Credo che Pazzini sia in quella fase, sia nella fase Cassano della carriera, quella in cui ha bisogno di essere al centro di un progetto, forse è un progetto anche medio, però è un attaccante che ha voglia di giocare, di segnare, sì. Forse all'Inter non avrebbe questa garanzia. Marco Berinazio, rispondi a questo messaggio per favore. Mi chiedo come fate a non capire niente, diciamo così. Demolire i vecchi stadi costa di più che farli da nuovo, chi paga la demolizione? Il costo dell'operazione, però io mi chiedo, e qui tirando in ballo Inter e Milan... Costruire un altro stadio in qualsiasi area del comune di Milano, fuori dal comune di Milano, può avere un senso, ma avere San Siro, cioè la storia di San Siro, il fascino di San Siro, cioè Barcellona e Real Madrid stanno pianificando delle ristrutturazioni dei propri impianti, che già sono mille anni avanti rispetto ai nostri, ristrutturazioni da 300-400 milioni, magari venderanno i naming rights, però sono lì, li fanno lì dove c'è la loro storia. Ecco, la convenienza può essere non direttamente economica, quella di ristrutturare e poi di ricostruire, ma c'è nel fascino degli stadi e soprattutto c'è un dato da considerare, che tutti i progetti di stadi redditizi che ormai si fanno in Europa prevedono la costruzione di stadi comunque calati nel tessuto cittadino, cioè non le cattedrali nel deserto. Sì, questo è chiaro. Per cui diciamo che essendo tutti gli stadi attualmente in Italia in queste aree potrebbero essere meglio sfruttati se ristrutturati in maniera profonda. Lo stesso stadio di Genova, che pur tante critiche insomma si attira, è comunque uno stadio pieno di fascino, sì, sì. E dentro la città chiaramente c'è bisogno di una profonda ristrutturazione, ci vogliono aree hospitality per un numero maggiore di spettatori, certo. Ci vogliono strutture dove per esempio si possano fare, non so, delle mostre, anche dei matrimoni, ci sono stati inglesi in cui si fanno i matrimoni, non arriveremo a questo, deve essere, deve essere già pensato per altro, cioè non è che lo stadio non deve subire un altro avvenimento, un'altra manifestazione, un'altra, invece in Italia siamo ancora, sono ancora due cose distanti, invece devono proprio andare, e ti ritrovi con stadi che fanno, diciamo, dobbiamo ragionare in termini commerciali, uno stadio fa alla fine 20-22 eventi l'anno, è chiaro che economicamente non lo puoi mantenere, ed è anche il motivo per cui molti comuni si mettono di traverso e impediscono, certo, alle squadre di portare avanti i progetti. Per il comune di Milano perdere San Siro significherebbe perdere 8 milioni all'anno, e non credo che con i concerti di Vasco, bellissimi per carità, pieni di persone, ma con quelli fuori che si lamentano, si possa mantenere un impianto così. Quindi diciamo c'è anche questo discorso da considerare, certo. Sebastiano, ma Maurizio Firenze, buongiorno. Sono qui, salve, ciao. Io ho chiamato per fare una puntualizzazione, siccome sono rimontato a macchina nel momento stesso in cui mi pare proprio lei, signor Genta, diceva di non ricordarsi cosa era successo a Cagliari di così clamoroso. Volevo puntualizzare che la memoria collettiva sportiva è strana, perché tutti si ricordano del non gol di Turone dell'anno prima, ma nell'82 a Cagliari, alla Fiorentina, a Graziani fu annullato un gol regolarissimo, perché Vox Populi, dico quello che dicono a Firenze, era l'anno dei mondiali e Bearzot sembra che non volesse nessuno spareggio per un'eventuale assegnazione dello scudetto. Il rigore poi famoso di Vrevi è un mani di Palanca ampiamente fuori dall'area. Le cronache sportive dell'epoca ricordano tutto. Io mi ricordo, ma ha fatto bene. No, io non mi ricordo, avevo 14 anni. A Firenze l'abbiamo impresso, sì. Nella memoria. Io ne avevo 8 di anni, però ripeto, il tifoso è ognuno di noi, piccolino, grande che sia, le cose le ricorda benissimo. Però ripeto, la memoria collettiva sportiva è strana, perché tutti gli anni quando c'è Juve Roma viene rammentato il gol. Ma quindi il gol, cioè il rigore per la Juventus non c'era, lei mi dice? Ripeto, Vox Populi, anche se è la Vox Populi di Juventina di 10 minuti fa, la dovremmo richiamare, richiamiamo l'ascoltatore. Il gol di grazia, anche se il rigore c'era, stato tanto, magari io posso anche magari ricordare male, ma il gol annullato a Graziani per un fuorigioco inesistente, richiede ancora che venga insomma giustizia, via. Però in quel caso la Juventus sarebbe non sarebbe il mandante sarebbe Bearzot, giusto? Diciamo il sistema, si può definire. Fatto che si possa chiudere ora è così, perché noi non abbiamo, cioè ormai lo sport in Italia, il calcio in Italia non ha una scatola nera come archivio, c'è la scatola bianconera, c'è la scatola viola, c'è la scatola rossonera, ma è il bello e il brutto, questo è quello che diceva Paolo prima. Sto cercando su Google gol di Graziani al Cagliari, gol Graziani Cagliari, metti queste tre parole e il primo link, sai qual è? 1972-2012, 40 anni di furti bianconeri. Per fortuna che manca un minuto alla fine della trasmissione. Sebastiano, buongiorno. Buongiorno a voi e grazie per la convocazione. A lei. Niente, io volevo semplicemente riportarmi alle parole di Pardo di poco fa, che diceva che ci sono comunque degli amici romanisti con laziali, i fiorentini con Juventus. Io volevo raccontare questo aneddoto, magari giusto per stemperare la tensione. Oh, messaggio di pace, vai. Vai, sì, Sebastiano. Che ci può essere per stemperare questa partita di domani sera? Io, juventino, ho un amico trentennale tifoso della Fiorentina. Ebbene, l'anno scorso, durante la partita, quel dolorosissimo 4-2, noi l'abbiamo vista assieme. Ovviamente lui è venuto a casa mia, dove c'è praticamente un altare della Juve con me, mio fratello, mio nipote, mio padre, tutti bianconeri, lui fiorentino, ha goduto tantissimo. Stessa cosa nell'andata dell'Europa League, ha goduto tantissimo lui. Allora io, per scaramanzia, al ritorno non l'ho invitato a vedere Fiorentina-Juventus, e tutti sapete benissimo com'è andata. Quindi dico, una partita da godere tra amici e da godersela, perché sarà comunque uno spettacolo. Una partita da godere tra amici, ma meglio se gli amici non ci sono, così la Juve vince. Questo era il senso. Credo di vederla da solo, sicuramente non la vedrò col tifoso fiorentino. Adesso vi saluto, ringrazio Marco Berinazzo che è di casa, grazie Marco. Grazie a voi, a presto. Ciao Marco. Franco Piantanini è il nostro autore, Fabio Cantadori in regia, Daniele Buonamici in redazione. E però io vado adesso, mi leggo e riguardo tutto ciò che riguarda Cagliari, Fiorentina e Catanzaro, Juventus. No, ma domani chiamiamo Graziani, Palanca. Certo, o Massaro anche. Domani... La tensione si avverte come sia in campo che sugli spalti. La posta in palio è altissima per entrambe le squadre. Anche il minimo errore potrebbe compromettere gli sforzi di un'intera stagione. Nel primo tempo non succede praticamente nulla se succede un'azione personale di Selvaggi con palla salvata all'ultimo momento da Galbiati. I violi invece appaiono tesi e raramente riescono a portarsi dalle parti di Conti, che, a parte qualche uscita in presalta, rischia poco. Il seguito, alla prossima puntata, ciao. 14:30, si parte tra poco, inizia la sfida, ma è solo un gioco. Folla ai cancelli e spalti gremiti, per un gioco antico, con moderni miti. Tripudio di cori, bandieri e vessilli, sodono assordanti di tromba e di squilli. E si intravede lontano il sottopassaggio, il divin codino del divino baggio. Allora, come le ho detto, mi chiamo Deris Bennock. Ben Bennock, lo ricorda? Non vedevo questa fotografia da 20 anni. Hai visto com'ero allora? Guardami adesso. La prego, signor Pilzer, faccia un tentativo. Se non ho le qualità giuste, lasceremo perdere tutto. Credimi, figliolo, tu non ce le hai le qualità giuste. Invece mio padre le aveva. Tuo padre era il più grande velocista che abbia mai visto. Correva i 100 metri in 10:20. Beh, io li corro in 9:09. Per favore, faccia una prova. Mi dispiace. Sei in ritardo di una 20 anni. Ho capito. Lei magari si scorderà facilmente di me, signor Pizzer. Ma questo non se lo può scordare. 20 anni fa lei è venuto fin qui per cercare di trasformare un velocista giamaicano in un bobbista. Ma con lui non ci è riuscito. Guardi lì, signor Pizzer. Con me può riuscirci. Mi metta la prova. Abbonamento bancario. Da Banco Desio si può. Vi ha presentato... Convocati.